GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il carcere di Tolmezzo al centro di una maxi operazione della Procura di Udine. Fulcro dell'indagine, telefoni cellulari e droga introdotti indebitamente nella struttura. Perquisiti oltre 80 detenuti. Gli investimenti sul porto di Trieste attirano le organizzazioni mafiose, la conferma nell'ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia. Sospese le forniture di gas russo attraverso il gasdotto di Tarvisio. Intanto la nube di metano si allontana. Gli ultimi dati INPS confermano il record di assunzioni in regione nei primi 6 mesi dell'anno, ma resta la piaga degli infortuni sul lavoro. Inaugurata a Udine, Casa Moderna, edizione numero 69, in fiera, padiglioni al completo, focus su sostenibilità ed energia. Oggi il 50° congresso della sezione di Pordenone dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, il presidente provinciale Verardo. Siamo una regione virtuosa, ma bisogna continuare a far conoscere l'importanza del dono. Lo sport basket Cividale buona la prima, in A2 i Ducali vincono contro Chieti. Stasera tocca all'APU Udine, domani esordio in A1 di coach Legovic con la Pallacanestro Trieste. 8:31 minuti e 30 secondi, buona domenica da Daniele Lettige e da Paolo Roncoletta. Anzitutto diamo uno sguardo al tempo, il cielo è in prevalenza sereno, poco nuvoloso sulla regione, con qualche formazione nuvolosa in più sul Cadore al confine con il Veneto. Le temperature rilevate alle 8, a Trieste abbiamo 16 gradi, mare quasi calmo con una temperatura di 20 gradi e 7 decimi. A Udine quasi 14 gradi, 14 gradi a Gorizia, 13,5 a Pordenone, 11 a Tolmezzo, 7 a Forni di Sopra, 6 a Tarvisio, 4,5 a Sappada, 8 sul Monte Lussari, 7 sullo Zoncolan, 16,5 a Lignano, 18 a Grado. Le previsioni. Sulla zona montana cielo in genere variabile, su pianura e costa in prevalenza poco nuvoloso. Sulla costa soffierà vento debole al più moderato, in prevalenza da sud-est al mattino, da sud o sud-ovest al pomeriggio. Ora le notizie, partiamo dalla vasta operazione che ha portato carabinieri e polizia penitenziaria a perquisire 8 strutture carcerarie in Italia nell'ambito di un'indagine nata in Friuli, al centro il carcere di Tolmezzo. 5 cellulari ritrovati in diverse celle nel carcere di Tolmezzo solamente nell'ultima perquisizione, all'alba, ma sono una settantina i telefonini spuntati nella casa circondariale da quando la procura di Udine ha messo sotto attenzione la struttura, nel settembre 2021. Le indagini avevano portato nel giugno scorso al fermo di un agente di polizia penitenziaria di Raveo, accusato di aver introdotto sia cellulari sia stupefacenti. C'è riserbo su come siano entrati i telefoni, ma non si esclude che a fine indagini non emergano altri nomi di agenti indagati. Gli apparecchi sono stati rinvenuti in 2 sezioni su 4 dell'alta sicurezza, utilizzati dai reclusi sia per mantenere i contatti con le famiglie, sia per monitorare i propri interessi. Dopo la perquisizione, 9 detenuti degli 80 perquisiti sono stati indagati. L'ala del 41 bis è separata e non è stata interessata dal fenomeno. L'operazione, scattata su ordine della magistratura, è stata condotta dai carabinieri di Tolmezzo, supportati da personale dell'amministrazione penitenziaria proveniente da tutto il Triveneto, incluse unità cinofile. Perquisiti anche altri 8 carceri in Italia. Ricostruendo spostamenti e contatti dei detenuti trasferiti da Tolmezzo, gli investigatori hanno trovato cellulari anche nei carceri di Bari e Vicenza. A Tolmezzo, dove continueranno i monitoraggi, sono presenti 206 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 149 posti, un tasso di affollamento superiore sia alla media nazionale che a quella regionale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stata pubblicata la relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia con capitoli riservati ai singoli territori. Per il Friuli Venezia Giulia, la DIA conferma la grande attenzione rivolta verso il porto di Trieste, sia per le opere infrastrutturali, sia in relazione ai traffici commerciali che gravitano attorno ad esso. Le proiezioni delle cosiddette mafie tradizionali si sovrappongono alla presenza di criminalità organizzata che opera sul traffico di droga e sull'immigrazione irregolare. Segnalati inoltre gruppi provenienti dalla Campania che operano nel Monfalconese. Escluso per il momento l'arrivo sulla nostra regione della nuvola di metano sprigionata dalle falle lungo il gasdotto Nord Stream sul Mar Baltico. Il vento l'ha sospinta verso la Norvegia e il Polo Nord. A darne notizia gli esperti dell'Agenzia regionale per l'ambiente che in rete con altri servizi ambientali europei tengono costantemente monitorata la situazione. Sospese intanto le forniture di gas russo all'Italia attraverso il gasdotto di Malborghetto, ma sentiamo il responsabile del settore qualità dell'area di ARPA FUG, Fulvio Stell. Potrebbe anche non arrivare la nube di metano sulla nostra regione, questo in base alle simulazioni numeriche effettuate dai colleghi dei servizi ambientali del Nord Europa. Qualora nelle prossime giornate i venti dovessero cambiare e parte di questo metano dovesse arrivare sulla nostra regione, comunque le concentrazioni sarebbero molto molto basse e la nube sarebbe diluita. Dobbiamo anche ricordare che non esistono dei limiti per quanto riguarda le concentrazioni di metano in aria ambiente ai fini della tutela della salute umana, proprio perché questa sostanza, il metano, è molto meno reattivo rispetto alle altre molecole che anche l'agenzia monitora ai fini proprio della tutela della salute umana, come ad esempio gli ossidi di azoto e l'ozono. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Del lavoro. Nel primo semestre del 2022 il numero di assunzioni in Friuli Venezia Giulia nel settore privato è aumentato del 27,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e si è registrato un incremento di 7.000 assunzioni rispetto al primo semestre del 2019, anno precedente alla pandemia. Lo evidenzia l'ultima ricerca dell'IRES che ha rielaborato dati INPS. La 72esima giornata nazionale ANMIL sugli incidenti e infortuni sul lavoro, che si svolgerà domenica prossima all'azienda Clubber di Fiume Veneto, avrà un significato particolare. Sarà infatti rivolta ai giovani come Lorenzo Parelli che hanno perso la vita durante stage in azienda. Un'occasione di riflessione su un problema purtroppo sempre molto attuale. Il 18enne Lorenzo Parelli è morto sul lavoro il 21 gennaio del 2022, ancora prima di diventare un lavoratore vero e proprio, perché stava terminando il suo periodo di tirocinio. Una tragedia che ha fatto riflettere il paese intero sulla sicurezza sul lavoro, un requisito che troppo spesso si rivela assente. I dati ANMIL ci dicono che nei primi sei mesi dell'anno in Italia ci sono stati 440.000 infortuni, quindi il 41% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. L'incremento è stato meno marcato in Friuli Venezia Giulia, ma c'è stato. Fino a luglio sono stati denunciati 10.380 infortuni a fronte dei 9.000 dello stesso periodo dell'anno scorso. A Gorizia, che ha avuto il 24% di incidenti in più, e Trieste il 22% in più, gli infortuni sono stati rispettivamente 1.600 e 2.250. L'incremento attorno al 10% nel pordenonese e in Friuli, con 2.350 infortuni a Pordenone e 4.150 nella provincia di Udine. Hanno perso la vita lavorando 5 persone nei primi sei mesi dell'anno, 4 in Friuli e 1 nel pordenonese, morti sul lavoro ai quali si aggiungono le 14 vittime del 2021. In aumento anche le malattie professionali in regione del 2,8%. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Protagonista alla fiera di Udine, Casa Moderna, l'evento dedicato a case e all'abitare, giunto alla 69esima edizione ieri, l'inaugurazione che ha svelato le proposte per arredare la casa con un occhio di riguardo alla crisi energetica nel rispetto dell'ambiente e con nuovi materiali ecosostenibili. Rafforzata anche la presenza delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia del sistema casa. 127 espositori diretti che con le loro aziende rappresentate portano oltre 200 i marchi presenti. Un'offerta espositiva con più di 163 settori merceologici. Un settore preso d'assalto è quello del riscaldamento da legno pellet, grande attenzione all'efficientamento energetico nelle abitazioni. È tempo di bilanci per la sezione di Pordenone dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, che oggi a Maron di Brugnera celebra il suo 50° congresso, consegnando i riconoscimenti a 627 donatori benemeriti. Con il presidente provinciale Mauro Verardo abbiamo fatto un punto sulla situazione del dono nella nostra regione. È una tendenza che è iniziata 5 anni fa, nel 2017, ed è in costante crescita. Siamo passati da poco più di 7.000 donazioni, quest'anno dovremo chiudere con oltre 9.000 donazioni. Questo è il frutto dell'attività dei presidenti di sezione e di tutti i volontari che ruotano attorno alla presidenza. Questa è una situazione in controtendenza rispetto a quello che succede a livello nazionale. Noi siamo in positivo perché stiamo puntando tantissimo sull'attività di promozione, partecipando a tutti gli eventi e le manifestazioni che ci sono nel territorio per promuovere e sensibilizzare le persone a diventare donatori. E dico a volte è importante, oltre che fare una donazione anonima, silenziosa, come la facciamo noi, di farci un po' sentire anche nei confronti delle persone che stanno bene. Perché come è un diritto per chi ha bisogno provare il sangue, diciamo che è un dovere per chi è in buona salute di donarlo. Possiamo dire comunque che nella nostra regione il livello di consapevolezza sull'utilità e la necessità di dono del sangue è abbastanza diffuso? Sì, proprio i dati di oggi ci dimostrano che il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e le Marche sono le regioni con il più alto indice di donazione. Siamo una regione virtuosa, sicuramente perché ce l'abbiamo nel DNA, proprio il desiderio, la volontà di aiutare gli altri. La nostra regione è autosufficiente con quello che raccogliamo come donazioni? Certamente, è autosufficiente e anzi contribuiamo a quella che è la programmazione nazionale, contribuendo con 8.000 unità di sangue che vanno destinate alla Sardegna e una buona parte anche in Lazio, dove le donazioni sono mediamente più basse rispetto alla media nazionale. Spilimbergo apre le porte al congresso annuale della Società Filologica Friulana, giunto all'edizione numero 99. Alle 10.30 al Teatro Mioto inizieranno i lavori. Nel corso dell'assemblea sarà presentato il numero unico Spilimberg, a cura di Gianni Coledani e Marco Salvadori, una monografia che in oltre 600 pagine raccoglie i contributi di ricercatori e studiosi sugli aspetti più o meno conosciuti del territorio spilimberghese. Con una camminata su un tratto della rotta balcanica si conclude oggi il 30° convegno del Centro Balducci, nel nome del fondatore Pierluigi Di Piazza, scomparso lo scorso maggio. La partenza è prevista alle 10 dal castello di San Servolo in Slovenia. Il cammino si concluderà poi al teatro comunale Prešeren di Bagnoli della Rosandra. Alle 8:41:30 passiamo allo sport basket. In A2 Cividale è in festa, la prima di campionato da neopromossa, ha sconfitto ieri sul parquet di casa Chieti per 81-78. Giacomo Dell'Agnello il migliore della partita con 20 punti a referto. Gara condotta sin dall'inizio e complicata nel finale, con i ducali in grado di chiudere avanti il primo quarto sul 25-19 e allungare ancora nella seconda frazione, chiusa con un parziale di +7. Gli ospiti hanno tentato la rimonta nel terzo quarto, riuscendoci poi nell'ultima frazione. Match a quel punto equilibrato e finale thrilling, chiuso nei secondi conclusivi grazie a Rota, freddo nel segnare due tiri liberi e poi a sigillare il finale in contropiede, portando Cividale alla sirena sull'81-78. E stasera tocca all'Apu, che esordirà alle 18 a Ferrara. Saliamo in A1, dove la Pallacanestro Trieste inizia stasera alle 20 una nuova stagione affrontando Pesaro. Si affida in panchina al più giovane coach della massima serie, il trentenne Marco Legovic. Le sue indicazioni tattiche e i suoi obiettivi al microfono di Andrea Saule. Aggressività in campo è quello, la situazione principale in cui vogliamo essere performanti in attacco e in difesa. L'obiettivo è quello della salvezza e la permanenza in Serie A, secondo me, deve essere il primo obiettivo per una piazza ambiziosa come Trieste, per poi consolidarsi nel tempo. Cioè, restare in Serie A tra le 16 migliori squadre d'Italia con questo livello che quest'anno si è ulteriormente alzato, secondo me deve essere motivo di orgoglio con cui iniziare questo tipo di campionato. Ovviamente il pubblico per noi è una componente molto importante, sarà una componente molto importante per la nostra stagione. Dovremmo essere bravi a coinvolgerlo col nostro atteggiamento in campo, spendendo tutto quello che abbiamo all'interno dei 28 metri del parquet. Grazie al nostro atteggiamento sono sicuro che riusciremo a coinvolgerlo e ritornare un po' ai fasti del passato e questo legame tra squadra e pubblico che negli anni ci ha sempre dato molto. Il calcio in Serie A, ieri gli anticipi hanno visto le affermazioni di Napoli, Roma e Milan, oggi le altre partite, Udinese spettatrice che però vuole continuare ad essere la sorpresa del campionato. I bianconeri saranno in campo domani a Verona alle 20.45 contro l'ex tecnico bianconero Cioffi. In Serie C invece giocano oggi il Pordenone e la Triestina, alle 14.30 Unione al Rocco contro la Virtus Verona e Neroverdi in trasferta in Lombardia a Meda contro il Renate. Ciclismo. Jonathan Milan ha perso la maglia di leader al Giro della Croazia. Ieri, nella tappa con arrivo ad Albona, al corridore di Buia non è riuscito a tenere le ruote dei migliori, finendo staccato a una decina di minuti dal vincitore, il danese Jonas Vingegaard, trionfatore dell'ultimo Tour de France. In classifica generale, Milan è scivolato al 15° posto, conserva invece la prima posizione nella classifica a punti. Oggi l'ultima tappa con traguardo a Zagabria e Milan potrebbe tornare protagonista. Saranno 102 le cicliste che oggi si sfideranno per conquistare la prima Coppa Città di San Daniele Rosa. La manifestazione si pone anche l'obiettivo di lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne attraverso la collaborazione con il Centro Risorsa Donna. La gara si disputerà su un circuito da ripetere 5 volte per 91,5 km, partenza alle 13 da Via Kennedy. Vela. Arca di Furio Benussi ha inaugurato il weekend di regate della Bernetti, organizzato nel Golfo di Trieste dalla società nautica Pietas Iulia, aggiudicandosi la prima edizione della Bernetti Warm Up per la classe Open, mentre negli ORC ha vinto Mayflower di Riccardo Zuccolo. Oggi la regata vera e propria con 165 equipaggi iscritti. Sono 250 i ragazzi che ieri a Trieste hanno avuto il compito di aprire ufficialmente gli eventi mare della Barcolana a bordo dei loro Optimist. Stamattina alle 11 sarà la volta di Barcolana Nuota, la gara di nuoto in acque libere. 226 i partecipanti. Apriamo la rassegna stampa con il piccolo di Trieste che in prima pagina punta sugli effetti della crisi in regione. Cene al ristorante, il caro bollette fa crescere i prezzi, il titolo di apertura. Già scattati nei locali aumenti medi del 10%, in arrivo tagli di orari. In prima pagina sul piccolo anche una foto con un baby velista a bordo del suo Optimist, segnale dell'apertura degli appuntamenti della Barcolana. In primo piano anche l'avvertenza Varzila con il rallentamento dell'attività nello stabilimento, fermi i motori per la Fincantieri. Sul quotidiano triestino si parla anche del cantiere infinito di Galleria Forangi, la cui riapertura slitta al prossimo anno, e poi spazio a una polemica sulla gestione dei tanti migranti in arrivo in città dalla rotta balcanica. Tanti migranti senza alloggio, c'è un nuovo allarme del Consorzio Italiano di Solidarietà che si occupa di accoglienza, ma il prefetto Vardè ribatte: dati non veri, l'emergenza c'è, non c'è. Ad aprire l'edizione di Udine del Messaggero Veneto c'è la notizia dell'interruzione dell'arrivo di gas dalla Russia all'Italia. Stop al flusso da Tarvisio, la causa sarebbe un problema tecnico. L'Algeria copre il fabbisogno italiano. A centropagina una fotonotizia dedicata alle prime nozze sottoterra celebrate in Friuli Venezia Giulia, nelle grotte di Villanova. Il sì di Altea e Gianluca a 100 metri di profondità. Nelle pagine locali, ampio spazio è dedicato alla cronaca. Guardia in galleria Astra per fermare le baby gang. Gli esercenti, c'è paura. Il primo titolo delle pagine di Udine del Gazzettino è invece per la cronaca. Aggressioni sui bus, chiesto il DASPO. La CISL Trasporti ai sindaci, violenti e balordi, non devono più salire sui mezzi pubblici. Dall'inizio dell'anno 50 casi. A centropagina invece la notizia dell'indagine sui cellulari in carcere partita da Tolmezzo. L'edizione Isontina del Piccolo apre la prima pagina con una fotonotizia dedicata al successo di Gusti di Frontiera, la manifestazione che sta riempiendo Gorizia di visitatori. Gusti si rianima, in titolo. Questo è l'anno dei dolci. In prima pagina c'è anche l'economia con l'annuncio di un piano strategico per infrastrutture da 18 milioni nell'Isontino, frutto delle linee strategiche e operative del Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia. A Monfalcone invece c'è stata Roghi sul Carso, la festa per gli angeli custodi, istituzioni e volontari che si sono prodigati nel contenimento degli incendi che hanno devastato il Carso. Anche il Messaggero Veneto di Pordenone titola sullo stop all'arrivo del gas russo a Tarvisio, per dedicare poi uno spazio al caro energia. A Pordenone, comune costretto a tagliare le spese, Natale con meno luminarie in città. La notizia apre anche lo spazio della cronaca locale, dove un altro articolo dà conto degli effetti dei rincari sulle piscine. Gymnasium chiude la piscina di Motta di Livenza la domenica, ancora nessun provvedimento a Pordenone e Aviano, ma resta alta l'attenzione. Nella prima delle pagine pordenonesi del Gazzettino, spazio al rapporto della direzione antimafia, ripresa economica post-pandemia, rischio 'ndrangheta. All'interno un articolo dà conto di un'altra notizia legata ai rincari. Vietato asfaltare le strade, il bitume ora costa troppo. L'aumento delle materie prime ha bloccato i lavori in città. Proseguiamo con gli appuntamenti. Oggi in regione due maestri del cinema italiano, Paolo Virzì, presenterà il suo ultimo film Siccità a Pordenone a Cinema Zero, prima dello spettacolo delle 16.30, e in seguito sarà ospite al Cinema Visionario di Udine al termine dello spettacolo delle 16.15. Al Teatro Gustavo Modena di Palmanova invece alle 17.30 sarà di scena Pupi Avati per presentare il suo libro L'Alta Fantasia, in dialogo con il giornalista Alessandro Mezzena Lona. I nostri programmi. Tra poco, su queste frequenze, Vita nei Campi. Seguirà alle 9.15 la prima puntata dell'originale radiofonico Il Direttore di Elke Burul e Pietro Spirito, per la regia di Stefania De Maria. In TV, alle 9.15 su Rai 3, i concerti di Lynx, a cura di Piero Pieri, e Fibre Marine di Sala Svagheli ed Ettore Spezza. Termina così la prima edizione odierna del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, edizione che è stata redatta da Andrea Covre, Daniele Lettige e Paolo Roncoletta. Assistenza tecnica in regia di Giuliano Pecorari. In redazione ha collaborato Daniela Sossi. Vi diamo appuntamento per la prossima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia alle 12.15, e vi ricordiamo ancora che dopo la nostra sigla andrà in onda la rubrica Vita nei Campi. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.